tutto è compito. I nomi accolti, le vittime svenate, al gran cimento l'ora è prescritta. E più la pugni ormai, senza offesa a denumi della pubblica fe, dell'onor mio, differir non si può. Ragion d'esser superba io ti darei, se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara. Veolinto di Megara, Ecclearco di Sparta, Ati di Tebe, Erino di Corinto, e fin di Creta, Licida venne. Chi? Licida, il figlio del re cretense. E viene con gli altri a prova. Si scordò d'Argene. Seguimi, figlia. Oh, questo pugno, padre, si differisco. Un impossibil chiedi, dissi perché. Ma la cagion non trovo di tal richiesta. Ho di venire a sta gente sempre ben tempo. E di Meneo per noi pesante è il giovo. Già senza esso abbiamo che soffrire abbastanza nella nostra servil sorte impedite. Dice ognuna così, ma il ver non dice.